Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Oggi nel primo dei nostri approfondimenti parliamo di una delle iniziative di riferimento del consumo critico in Italia. È la fiera che da 10 anni racconta e stimola abitudini di vita e di consumo sostenibili. In tema di grande distribuzione e retail parliamo poi di un brand canadese che punta su arte e low cost e per il focus sui trend di consumi in prova, perché guardare e non toccare ormai è passato di moda. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Continua il calo dei consumi che a gennaio, secondo i dati Confcommercio, sono scesi del 2,4% rispetto a un anno fa, tornando ai livelli di fine 2004. Lo scandalo della carne di cavallo si fa sentire sulle vendite di piatti pronti a base di carne. Secondo la Conferenza Italiana Agricoltori, si registrano cali tra il 10 e il 30%. Il Qatar continua il suo shopping nel mondo del lusso e aumenta la sua partecipazione nel marchio di gioielleria Tiffany, dove supera ormai l'11%. Il fondo di investimento sovrano del paese arabo detiene anche i magazzini Harrods e la Maison Valentino. 15 anni dopo la prima incursione, le Galerie Lafayette tornano in Cina. A settembre i grandi magazzini del lusso francesi sbarcheranno a Pechino, la stessa città in cui debuttarono nel 1997, per poi chiudere un anno dopo. Il gruppo ha in programma di aprire altri 16 punti vendita nel paese entro 5 anni. WWF Francia firma la sua prima collezione di pellicce. Ecologiche, naturalmente. La label si chiama Wonder World Fur e si compone di 6 modelli disegnati da un gruppo di stilisti britannici realizzati con fibre naturali, tra cui mohair, lino e seta. La borsa della spesa. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione! Fate sbollire la vostra rabbia! Always do the right thing! Da 10 anni una fiera evento in Italia ci insegna a fare le scelte più giuste in tema di consumo critico e stili di vita sostenibili e Fa la cosa giusta, in programma dal 15 al 17 marzo a Fiera Milano City. Un appuntamento all'insegna delle abitudini di consumo più giuste per l'uomo, l'ambiente e, perché no, le nostre tasche. Autoproduzione, riciclo, riuso, cucina antispreco, ma anche artigianato, turismo consapevole, chilometro zero, moda etica, commercio equo e solidale, giardinaggio, associazionismo baratto e sharing economy. Chiara Cuzzola è la responsabile dell'organizzazione di Fa la cosa giusta. Fa la cosa giusta compie 10 anni e quindi sono 10 anni di consumo critico. Si parla di stili di vita che nel corso degli anni sono cambiati e che in qualche modo sono entrati a far parte della quotidianità delle persone. Il tema di quest'anno è il futuro di chi lo fa. Dare la possibilità proprio a tutti quanti, a tutti i visitatori, a tutti i cittadini di intervenire direttamente nella costruzione del proprio futuro facendo delle scelte consapevoli, facendo delle scelte giuste. Parliamo di agricoltura biologica, parliamo di abbigliamento sostenibile, parliamo di coibentazione, quindi di risparmio energetico, di energie rinnovabili, parliamo di mobilità sostenibile, la sezione speciale del 2013. Avremo anche un importante circuito di mobilità elettrica dove sarà possibile provare e acquistare oltre 100 veicoli elettrici che saranno esposti e messi in prova. 10 anni fa parlare di consumo critico aveva una valenza in qualche modo molto più politica, oggi il messaggio è molto più trasversale, così? Sì, ce ne accorgiamo e lo vediamo anche dalla crescita sempre costante di visitatori, mentre appunto 10 anni fa si trattava di una scelta, appunto, come diceva, politica e in qualche modo anche di nicchia. Adesso il consumo critico, quindi un consumo consapevole delle scelte anche proprio di stili di vita quotidiani, diventa un qualcosa che è assolutamente più trasversale all'interno della società. In fiera si potrà anche imparare a trasformare gli abiti che non indossiamo più, a realizzare un paio di eco ballerine oppure a creare gioielli e accessori con scarti di tessuto. Nicoletta Fasani realizzerà il laboratorio Scartoria. Nasce dal bisogno di smaltire senza sprecare i miei scarti di produzione. Io produco abiti, quindi accumulo un sacco di stoffa bella che però non posso riusare in abiti. Io insegno una tecnica particolare che appunto prevede solo l'utilizzo di forbici senza ago e filo. Un laboratorio ridotto alla sopravvivenza anche come strumenti, in modo da creare in chi fa il corso la consapevolezza che si può creare un qualcosa anche proprio con niente. Quindi andremo a fare collane e accessori con questa tecnica di nodi e tagli. Quanto la cultura del riutilizzo dello scarto di lavorazione sta entrando anche nei processi industriali, in chi produce, in chi si pone il problema di non buttare via lo scarto? Il mio osservatorio è piccolo, appunto perché sono una piccola produttrice, però sicuramente questa consapevolezza sta aumentando, anche perché la materia prima con cui noi produciamo ha un costo. In particolare poi se ci si rivolge a materie prime a loro volta che non sono state trattate magari con coloranti chimici, ma quindi si spende anche di più per produrre abiti di qualità, il concetto dello scarto ha un'importanza fondamentale, anche perché poi sono convinta che prima o poi anche il cotone finirà. Io ho iniziato anche a fare delle magliette per non sprecare tessuto, che dietro sono fatte da due metà, in modo che quando appoggio il cartamodello sulla stoffa ne uso meno, per esempio. Sono tutti escamotage che uno poi si ingegna, ecco. Spazio alla mobilità sostenibile con ElectroCity, lo abbiamo sentito, e con tutto quello che ha a che fare con la bicicletta, il mezzo simbolo degli stili di vita amici del pianeta. Pier Giorgio Petruzzellis curerà la ciclofficina. Allestiremo due spazi, uno con una decina di biciclette in prova, tutte orientate all'utilizzo urbano e al turismo, con dei carrelli e con anche delle bici lunghe da carico per doppi seggiolini, così da far provare alle persone la possibilità di usare la bici in qualsiasi condizione. Le bici cargo non sono per nulla considerate perché non sono conosciute, però in realtà sono un valido sostituto ad esempio alla seconda automobile in famiglia. E poi uno spazio officina vero e proprio dove faremo dei corsi, degli incontri, dei piccoli seminari a ripetizione su argomenti più disparati, dalla meccanica alla bici da polo, a come attrezzare una bicicletta per viaggiare, tutte cose appunto di teoria e pratica ciclistica. Che cosa va più di moda, per così dire, in questo momento? Lo scatto fisso oppure come pratica il bike polo? Che cosa, tu che sei insomma osservatore del mondo? Il bike polo è emergente, divertente, da giocare. C'è tanti ragazzi che stanno giocando, si stanno appassionando. Lo scatto fisso sta raggiungendo il suo culmine, sono in tanti ormai che lo conoscono. Più che altro quello che piace è l'idea di avere una bici essenziale, poi che sia scatto fisso o altri sistemi poco importa, l'idea è quella di avere una bicicletta essenziale. Cambiamo argomento con Cristina Lazzati di Business Media. Parliamo di un brand di abbigliamento canadese che nasce dai supermercati e ha molto da insegnare in tema di low cost. L'evoluzione del brand Joe Fresh è inusuale, almeno secondo gli standard europei. Infatti nasce come marchio di abbigliamento della catena di super ipermercati più grande del Canada, Loblaw. E invece di rappresentare il rosso del conto economico, come troppo spesso accade nei nostri ipermercati, Joe Fresh è andato così bene da diventare uno stand-alone di prestigio, con 18 punti di vendita in patria e ben 4 negozi a New York, con un flagship su Fifth Avenue. Il successo della formula è il giusto mix di prezzo e originalità, un fast fashion che ha puntato tutto sul colore, a partire dal brand di un arancione squillante, con capi dalle linee basic, layout essenziali, ambientati in spazi premium, valorizzati da pezzi d'arte moderna che si integrano con i manichini, quasi delle sculture, firmate da Ralph Pucci, un vero artista in questo campo. L'arte è la cifra stilistica scelta da Joseph Mimaran, direttore creativo non food per Loblaw. E quindi performance, video wall e happening si accompagnano a sponsorship di mostre nei grandi musei di Manhattan. Una tendenza questa da non sottovalutare. I big retailer del fast fashion oltreoceano stanno diventando dei veri e propri filantropi, ma questa è un'altra puntata. Essere e avere.